people, benvenuti a tutti e tutte. Iniziamo questa nostra nuova puntata, ultima puntata di marzo, puntata pre-pasquale. Appunto, con l'occasione facciamo gli auguri a tutti e tutte. Come sempre siamo in diretta dalla bolla del Brancaleone. Salutiamo tutte le amiche e tutti gli amici del Brancaleone. Ricordiamo che siamo in avvicinamento a quello che è il 5 di aprile, il Colteo, appunto a sostegno del Brancaleone, ma poi ne parleremo un po' più avanti. E detto questo, iniziamo questa nostra nuova puntata. Tema della puntata, oltre appunto a raccontarci un po' di Pasqua, parleremo di collezionismo: cosa collezioniamo, cosa ci piace, cosa soprattutto a cui non rinunciamo ad accumulare, diciamo così. Iniziamo questa puntata con il primo pezzo per noi e poi ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger. Tutti i venerdì dalle 17 alle 18. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi, ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, nei sabato sera. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, puntata pre-pasquale. Ci si avvicina finalmente alle grandi abbuffate pasquali e di Pasquetta soprattutto, che chissà cosa si farà a Pasquetta, soprattutto come sarà il tempo. Allora, iniziamo questa puntata, passo direttamente il mic al mio amico Luca, iniziando subito con la domanda che è il tema della puntata. Cosa vorresti collezionare o cosa hai iniziato a collezionare e quindi cosa proseguirai a collezionare? Buonasera a tutti, sono Luca. Allora, per prima cosa, vabbè, sempre le mostre, poi le cose che vorrei collezionare sono le magliette calcistiche, perché a me piace il calcio, mi piacciono i giocatori, tipo, io come magliette principali ho una delle magliette, ce ne ho due della Roma, una del 2015, una di un'altra, mi pare che abbiamo vinto dopo lo scudetto, e ne ho una fenomenale di Frank Lampard del Chelsea con il numero 8. Che quella maglia era della finale quando loro avevano perso contro il Manchester United ai calci di rigore, che questa cosa mi ha molto colpito e perciò vorrei collezionare magliette, non perché vorrei soltanto appenderle, ma perché le vorrei indossare co come tutte le maglie. E poi Ok, poi so che insomma, visto che sei un grande estimatore della PlayStation, appunto, cos'altro ti piacerebbe collezionare oltre alla PlayStation? allora, vorrei collezionare i Countryball. Per chi ne lo conoscesse, i Countryball sono sfere che hanno soltanto occhi e bandiere di stato, ecco, che ne ce stanno molti. Tipo, io ne ho visti su AliExpress, YouTube, ho visto alcuni video, tipo, ho visto alcuni video che rappresentano proprio il paese europeo, ovvero la Francia. Ho visto che c'era la Germania che stava contro di loro, perciò ho visto. Mo me lo compro, su AliExpress 60 e 50 prezzo, ho detto, mo me lo compro. Perfetto Luca, quindi diciamo che il tuo collezionismo cioè comunque anche roba interessante, non è, le maglie di calcio non sono banali perché esistono mille e mille squadre, non solo della Serie A, ma insomma ci sta la Serie B, ci stanno le squadre anche quelle insomma di quartiere, diciamo così. E allora andiamo con un pezzo che porta il nostro amico Luchino e poi ritorniamo sempre raccontando, anzi. Andiamo direttamente alle nostre rubriche, quindi rubriche sugli acquisti. Intanto, primo pezzo per noi. Il cuore si muove, non cerca ragione, la mente si illude e cambia le cose. Settembre e sono più dolci le onde, la luce riflessa sul mare. Settembre ti cambia l'umore, e sento ancora addosso le tue mani, mamma. E sento ancora addosso le tue mani. Ti vedo mentre guidi a fari spenti. Vite fragili come origami. Ed era tutto lì in quei pochi istanti. Il mistero di cercarsi. Una delle tue donne deluse. Settembre, nessuno ti serba rancore. Nella stanza un beat che rimbalza, il sex appeal si mastica. Roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. E sento ancora addosso le tue mani. Ti vedo mentre guidi a fari spenti. Vite fragili come origami. Ed era tutto lì in quei pochi istanti. Il mistero di cercarsi. Cosa mi rimane? Perché sono ancora nostre le nostre promesse mai rese. Sento ancora addosso le tue mani. Ti vedo mentre guidi a fari spenti. Vite

Geniali, solo noi di Jolly Roger abbiamo queste spettacolari battute. Allora, noi andiamo con un altro pezzo e poi torniamo con un cambio mic. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. E ritorniamo in diretta, si parlava di regali pasquali. Io raccontavo appunto, visto che non partivo, perché stavo raccontando che a Pasqua anche ai miei simpatici animaletti a quattro zampe ho fatto un regalo. Alla mia cana ho regalato un osso e alla mia gatta ho regalato una cosetta che raccontavo che serve. Che detto c'è un po' di erba gatta, serve un mix fra mozzicamento e rifacimento delle unghie. Però detto questo, cambio di microfono, passo il mic al mio amico Matteo che è qua vicino a me e anche lui freme pronto a raccontarci questa ricca Pasqua dopo che lui proviene dalla settimana scorsa che è stato un lungo weekend di festeggiamenti e ancora un po' provato. Ma proseguiranno questi festeggiamenti? Ora vi facciamo dire dove proseguiranno e come proseguiranno. Ciao a tutti, Matteo. Io vado a Pacqua vado a Dublino con papà e mamma. A Pacqua, domenica 31, sabato 30, io 4 giorni con papà e mamma a Dublino. Perfetto, Ciccio, quando parti? Parto domani da Domani mattina, già mi ha detto che l'alzataccia sarà molto presto, giusto? sì. Quindi, allora, domani vai a Dublino, quindi atterri, ti sistemi e poi inizi a girare. E a Pasquetta? ma fa qui detto la che a Dublino che fa qui. Senti, allora. No, no, vai. Ah, dico, però mi raccomando, visto che tu sai che io sono un si parla appunto di collezionismo, io una volta collezionavo cartoline e, come diceva Luca, anche una volta si usavano le tesserine per il telefono. Oh. Tu mandaci qualche foto da Dublino. Sì, sì, io mando le patate a Chiara e Elena. Perfetto, e poi la settimana prossima, venerdì, non saremo in diretta, abbiamo spiegato il perché, perché anche noi di Jolly Roger saremo a testimoniare direttamente il supporto per il Brancaleone, quindi poi ne racconterai quello che è andato a Dublino, soprattutto se sei ritornato in Italia da noi. Sì. E vai io a raccontare, io un amico tracotto va a un va date pire vai Martì. Esatto, allora io gli ho detto, lo dico anche pubblicamente qui in radio, che se si azzarda a ritornare in Italia senza aver assaggiato una birra, io lo faccio arrestare dal padre, quindi lui già lo sa. Quindi amici, se non lo sentite per qualche periodo è perché il suo arresto è dovuto alla non bevuta di birra, quindi andiamo con un pezzo ciccio, un pezzo che hai portato tu, e poi ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Ma tu no, tu no, tu no, tu no. Quando non c'eri e non stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere. E griderò forte, ma non starò meglio. Cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no. Tu no, tu no, tu no. Tu sorridi. Passavano i mesi, in un secondo tutto intorno era invisibile. E dimenticherò chi sei, mi dimenticherò di te. E non lascerò, non ti lascerò ancora una volta vedermi crollare. Mi innamorerò di lei, ma tu non saprai mai chi è. Cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no. Tu sorridevi, cercavi un modo. Ritorniamo in diretta, questo è Irama, uno degli artisti preferiti dal nostro amico Matteo, infatti ogni tanto se lo canticchia, soprattutto mentre siamo qui al Brancaleone il mercoledì al laboratorio di cucina. L'ho sgamato mercoledì, infatti sono contento perché appunto passato un suo pezzo. Allora, Ciccio, qui siamo stati fermi la settimana scorsa che le partite non c'erano perché c'era la nazionale. Mo stasera gioca anche Sinner, giusto? Non si sa a che ora, perché ancora non si è capito. E ci stanno anche le partite. Con che vuoi iniziare? Con le partite? Ah, col meteo, a posto. Io avevo tutto un discorso, vabbè, però l'ha detto meteo e meteo sia. Voglio vedere che meteo dici. Meteo italiano o meteo irlandese? Irlandese? Mixiamo pure un po' qua con quello italiano, dai. Intanto vai. Fine settimana. Domani c'è la giornata, c'è il sole domani, Piero. No, aspetta. A Dublino c'è il sole domani perché arrivi tu, quindi sei bello come il sole. Ehi, e poi la domenica c'è la giornata, tutta la giornata, domenica 31. Che piove? No! E Pasquetta lunedì? Sì, ma tanto sole a Luigi e a Pasquetta. Va bene, allora questo è il meteo di Dublino, abbiamo detto, perché qua tanto qui da noi il tempo sarà splendidamente come tutti questi ultimi anni, cioè a Pasquetta pioverà sicuramente. Detto questo, Ciccio, e partite, le vogliamo dirle oppure le teniamo per noi? E dai, dai. Allora, io dico, Napoli Arata, pite Napoli, Torino molto, pite Torino, Fiorentina mia, pite Fiorentina. Perfetto, Ciccio, noi ancora stiamo aspettando qualche anima pia e misericordiosa che riesca a vincere questi pronostici che noi facciamo. Ricordiamo a tutti che si gioca sempre con estrema moderazione, però se vincete, noi qui il venerdì ci trovate al Brancaleone in via di Levanna 11 dalle 4:30 alle 6:30, giusto Ciccio? Vicino a Brancaleone. Va bene, noi vi aspettiamo, mandiamo un altro pezzo e poi ritorniamo sempre qui in diretta su Jolly Roger. Coming from my bones, says find a home. E ritorniamo in diretta, pezzo che ha portato il nostro amico Matteo, e ritorniamo nuovamente con un cambio di microfono. Ci sta la nostra amica Alice, nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Lucone e dopo ci dovrà raccontare una cosa veramente seria ed importante. Ora passo il mic alla mia amica Alice, che inizia con, penso, i suoi consigli di bellezza, giusto? Perfetto, vai Ali. Ciao a tutti, oggi voglio parlare di una crema idratante con olio di argan. Diciamo questa crema sboccia dai semi di olio di argan, perché questo olio di argan diciamo che esce e fa la crema idratante, fa questa crema idratante. Questa mattina non me l'ha mai detto, però diciamo però. Senti, e questa crema ti ricordi come si chiama? E questa crema si chiama Garnier. Questa crema si chiama Garnier. È di un'acqua micellare che io ho a casa. Quindi è un prodotto che tu usi quotidianamente? Sì. Adesso da poco Come ti trovi? mi trovo bene. Quindi per questo la consigli, quindi lo consigli soprattutto alle donne, da quello che ho Sì, capito. diciamo questa è una crema ma si può usare anche per le mani perché è nutriente e anche diciamo non solo idratante ma anche protettiva. Senti, visto che insomma, ok, dove la si può trovare? Supermercati, profumerie, dove l'hai comprata o te l'hanno regalata? Allora, in profumeria o nel supermercato? Ah, perfetto, quindi dove la trovi la compri, insomma, come si Sì. dice. Comunque si trova abbastanza facilmente, questa è la cosa importante. Perfetto, andiamo con un pezzo musicale e poi torniamo qui su Jolly Roger. Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere. Vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine, spiare le finestre accese delle case in centro, soltanto per immaginare di abitarci dentro. Il panico e gli attacchi, il rumore dei tuoi tacchi, l'umore dei tuoi sbalzi. Ricordati di noi, a bere dentro un bar, di quelli con l'insegna luminosa che non va. Ricordati di noi, a combinare guai, ma quante cose devo ancora dirti, ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace, che non sono capace a vivere una vita senza te. Non ci sono più canzoni da cantare, farfalle da mangiare, ho un dubbio dopo l'altro, ma so che voglio, voglio te. Pensa che è classico, due bambini ed un cane in un attico. Svegliarsi tardi e non andare all'assemblea condominiale. Oh, ma guarda un po', finalmente sorridi di nuovo. Ti bastava cambiare lavoro, sai che sparisco e che ci sono. So quando hai voglia e quando hai sonno. Buonanotte, io resto ancora un po' sveglio che ho voglia di stare a spaccarmi le nocche. Assieme a te non mi annoio, potrei pure fare la coda alle poste, fare la parte di quello più forte. Se te la sentirai tu, ricordati di noi, ubriachi dentro un bar, a fingere che non ci sia qualcosa che non va. Ricordati di noi, a combinare guai, ma quante cose devo ancora dirti, ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace, che non sono capace a vivere una vita senza te. Non ci sono più canzoni da cantare, farfalle da mangiare, ho un dubbio dopo l'altro, ma so che voglio, voglio. diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Allora, cara la nostra Alice, si parlava prima con... mo è scappato a... ma poi gli rifaremo la stessa domanda anche lui. Cosa ti piace collezionare o cosa collezioni? Prima ne abbiamo parlato... A me piace collezionare le creme, mi piace collezionare anche le bustine, tutti i barattoli, tutte le cose che io consumo, delle creme, shampoo, bagni e schiuma. Non butti io... niente, conservi tutto. Conservo tutto e non butto niente, conservo tutto. Perché... Poi qual era l'altra cosa che dicevi? Cosa collezioni? Che hai detto, ce n'ho tanti, tanti, tanti, tanti. Tipo? I portachiavi, mi hai detto. Poi c'ho tanti portachiavi che uso a volte, però non li metto, però, perché non tutti, perché se io me li perdo, perché io comunque perché ci tengo. Appunto, sono da collezione, perché... quindi le cose da collezione vanno un attimino sapute conservare, giusto? Sennò poi se perdono è un peccato, uno si dispiace pure. Certo, giustamente. Senti, vogliamo ricordare qualche cosa a chi si deve muovere con i mezzi pubblici, visto che appunto iniziano i riti della Settimana Santa e appunto cioè, c'è chi si muove per il centro, ma non solo. Allora, ragazzi e ragazzi e ragazze, allora vi... Ragazzi e ragazze tutti. Tutti quanti. Allora, vi voglio dire la notiziata che dice... che anche nel 2024 le persone che hanno più di 70 anni e un ISEE inferiore ai 15.000 euro viaggio gratis su bus, tram, metropolitane e attraverso la Metrobus Card. Perfetto. Poi appunto, visto che ci sono i riti della Settimana Santa, informatevi bene su quali sono le deviazioni e compagnia bella. Noi ve l'abbiamo segnalato, ma ovviamente non lavoriamo per l'ATAC, che tantomeno ci teniamo. Proseguiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo qua che dobbiamo far raccontare una cosa dal nostro amico Lucone. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultima se vuoi. Se resto qui, sento il mare che scende dai occhi. Non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture. Se resto qui, sento il mare che scende dai occhi. Cancherà pomi. Senza volerci nascondere, capiamo a pezzi una volta ancora fino a che di noi resta solo polvere. Se scende il mare dagli occhi per un milione di notti, quando te ne vai è un altro nodo da sciogliere. Ci fa male ma forse. Se resto qui, sento il mare che se ne dà gli occhi. Anche dopo un milione di notti ho paura di te. Scusa se non riesco mai a trovare le parole. Vorrei solo dimenticarti, ma è così difficile adesso che l'ultima notte con te. E ritorniamo in diretta. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, appunto si parlava di collezionismo, si parlava di vacanze pasquali, ma poi quando mi ha detto sta cosa ho detto fermi tutti, perché ora è arrivato da poco il nostro amico Lucone, ma deve raccontarci una cosa che secondo me vale la pena raccontare. Allora, mi hai detto che sei venuto, dove sei stato ieri? A scuola. E dopo scuola? A casa. Ma come a casa? A me mi ha detto, oh, sai che mi sono visto? Che ti sei visto? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda? 4. Mitico, Kung Fu Panda per me è proprio, cioè, il primo è proprio, il primo e il secondo sono dei capolavori proprio. E quando io, era uno di quei cartoni che ancora amo ogni tanto vedere. Senti, ti sei visto Kung Fu Panda e poi? Ti sei mangiato pure, mi hai detto, oh, mi sono mangiato? Al ristorante. No, si è mangiate le patatine, sei un attimino confuso con quello che farai a Pasqua. Invece a Pasqua mi hai detto che vai a? Al ristorante. E a Pasquetta, con zio? Giancarlo. E dove te ne vai? Già lo sai oppure? Al mare. Hai capito, cioè, guarda che è un uomo impegnato. E poi martedì si ritorna tutti al lavoro, giusto? Sì. Perfetto. Senti, vuoi fare un gli auguri in qualche lingua? Serbo. Vai. Buona Pasqua, di. Buona Pasqua. Perfetto, l'ha detto, era un mix fra croato e italiano, ma a noi ci piace così. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta. Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai uhu. Non guardare indietro mai e vai uhu. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole ma non come Icaro. Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. E ritorniamo in diretta, ultimi minuti per noi. Fuori onda si raccontava, come sempre è un altro mondo il fuori onda di Jolly Roger, e con Lucone si parlava. Ora io devo far di Luca a Luco, ma quante smart ci stanno? Ehi, hey, te. Smart.